La notte dei morti, capitolo ventitreesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Città di Castello, dicembre 2007. Mirice, di Giovanni Pascoli. Capitolo ventitreesimo. La notte dei morti. La casa è serrata, modesta. Ne fuma alla luna il camino. Non filano o torcono, è festa. Scoppietta il castagno, il paiolo borbotta. Sul desco c'è il vino, cui spilla il capoccio da solo. Intanto essi pregano al lume del fuoco. Via via la corteccia schizza arida, mormora il fiume con rotto fragore di breccia. È forse, io non odo, non sento che il fiume passare, portare quel mormore al mare, d'un lento vegliardo la tremula voce che intuona il rosario e che pare che venga da sotto una croce, da sotto un gran peso, da lunge. Quei poveri vecchi bisbigli, sonora una romba raggiunge col trillo dei figli dei figli. Oh, i morti! Pregarono anch'essi la notte dei morti per quelli che tacciono sotto i cipressi. Passarono, o cupo tinnito di squille dagli ermi castelli, o fiume dall'inno infinito. Passarono, sopra la luna che tacita sembra che chiami. Io vedo passare un velo, una breve ombra, ma bianca, di sciami. Fine del capitolo ventitreesimo.